va ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Enzino e Marzi, alla conduzione tecnica Simone. Hone. Ed è giovedì, come sempre. Un 14 maggio del 2015. Un inizio... così, al solito. Questa è Radio F, questa è Piazza Alta. Stasera una puntata di cui non possiamo parlare. Revival, direi. Non possiamo parlare per contratto nel primo intervento. Ma ritorniamo alle origini. Comunque, questo lo possiamo dire. Bravo, sì. Simone? Ciao a tutti. Benissimo, perfetto. Iniziamo. Buon ascolto. Andiamo con il primo brano. Io non la presenterei neanche, guarda, è talmente famosa. Di chi è questa, questo brano, Marcello? Ma, sicuramente è stato riconosciuto. Non è Cristina D'Avena, famosissima. Money for Nothing. Pensa, caro mio Marzi, ti dico solo due o tre cose. L'album ha venduto 35 milioni di copie. Hai detto Cotica. E sei l'unica a cui non è piaciuto, tra l'altro. E il non mi è toccato perché. Esatto. Il video della canzone è una pionieristica. Bravo, animazione digitale che fu il primo storico video trasmesso. E questa è una cosa molto particolare. Dall'allora nata MTV. Cioè, e da lì in poi il delirio. Il delirio. No, ma... Allora, caro il mio Marzi, ogni giovedì c'è Piazza Alta, la potete ascoltare. Che ormai è diventato un appuntamento fisico, direi. Siamo alla 51esima puntata, o meglio, la 23esima della come seconda edizione. Come la Dolce Occhessina, se non ascolti Piazza Alta il giovedì, poi... Ecco, io magari la Dolce Occhessina l'avrei fatta, avrei detto non lo so. Ma non l'ho detto a caso, Enzo, perché qui la Dolce Occhessina... Io mi ricordo sempre la pubblicità di quando ero piccolo . E si torna stasera indietro nel tempo. Ma bravo, ma prima di questo, quanta voglia hai di dirla? Veramente, guarda. Mi disintossico okay. Un pochino. Prima di questo, ricordaci, caro Come Marco, possiamo ascoltare la trasmissione di questa sera attraverso le radiofrequenze 101.2 okay. In FM. Sì. Poi in streaming. In nuovi mezzi tecnologici attraverso lo streaming. Ricorda l'indirizzo internet, ti prego. www.radiof.it. Però il punto dopo www non lo dice. Ma perché io sono un po' per il punto, per il chicco di riso, diciamo. E poi con le app, vabbè, lo sappiamo, insomma. Ma, ma c'è soprattutto un altro modo. Se volete anche interagire con noi da stasera e nei prossimi giorni, il nostro profilo Facebook Piazza Alta è molto ben frequentato e molto ben fornito anche di informazioni molto importanti, oltre che di foto che ci ritraggono della serata, tra l'altro. Certo. Abbiamo anche messo altre foto in settimana dell'Esploit di Luca Vanni, nostro ospite, che da quando è stato ospite nostro è letteralmente esploso. Stamane alle 10 era in diretta su Radio, su Rai 2. Mi sembra che ci abbia anche insieme menzionato a Nicola Pietrangeli. Vabbè, non te lo dico fuori onda questo. Qualcosa ha menzionato, però... Ma poi la nuova frontiera, Enzo. Bravo. La nuova frontiera non solo in audio. Giochi senza frontiere. In video sul canale YouTube Piazza Alta TV. Questa cosa mi mette veramente in eccitazione. Tutto quello che avete sentito e sentite nelle settimane, varie settimane in cui facciamo trasmissioni, lo potete rivedere appunto su quel canale. I nostri ospiti ci guardano, sì, anche voi finirete su un canale TV, vabbè, ma tanto, che ci importa, è uguale. No, pare che rimanga per l'eternità. Ma a proposito di ospiti, stasera vuoi sapere di che cosa parliamo? Così sono finalmente sto bramando. Aspetta, che per me è un problema. Allora, questa sera facciamo un tuffo, come dicevi, hai provato a dire nel più passato. Volte, bravo, nel passato, ma non perché i nostri ospiti che sono già qui siano anziani. Anzi. Tutt'altro. Ma perché parleremo del nostro dialetto, e che forse stiamo anche perdendo, perché se ti facessi dire qualcosa in chiarino non lo so se riusciresti a dirlo, e lo faremo appunto. Ma io non ho voluto intromettermi in questa cosa, perché ecco, invece qualche anno fa i nostri ospiti hanno voluto mantenere viva questa tradizione, questo, il nostro vernacolo, e l'hanno fatto fondando un gruppo, ovvero i B-Folk. Attenzione. Il dialetto chianino, un'icona dei nostri tempi, dall'epopea di Gilgamesh all'Accademia della Crusca, dall'Aretino Pietro al vernacolo toscano, un modo di esprimersi che tratteggia il carattere di un popolo. Motti, detti e contraddetti, poemetti epico-religiosi che diventano intercalari per tramandare le nostre origini. Chi bella bella, chi un bella vita le prode, canta per acqua e l'altri. Questa sera a Piazza Alta. True eyes. Dopo 14 anni tornano a fare un album Youth Mamò, caro il mio Massi. Ma dove? E qui in Italia, okay. L'album è Duty Free Rockets e il singolo che abbiamo appena ascoltato è Ti vedo un po' scrippolato. Hai mica una criminale. È Dove. Ok. E che è il singolo che lancia il nuovo album? Youth Mamò. Erano gli Just Mamò che ci hanno proposto questo brano. Ma finalmente questa sera, come abbiamo stiamo anticipando da 20 ore. Guarda, stiamo parliamo. Andando di rincorsa, insomma, abbiamo visto, presentare sì, i nostri. Abbiamo visto anche già la foto sul chi ci sta seguendo anche tramite Facebook. Stasera parliamo dei Bifolk, che era un gruppo che portava in giro per la Val di Chiana e non solo le tradizioni e la cultura e il dialetto chianino. Marci, presentaci i nostri ospiti. Io vado a presentare subito Patrizia, Roghi, Romina. Aspetta, Patrizia, Roghi, no. Ciao, ciao. Io vado di corsa perché ho voglia di sentire, perché nel fuori onda ho già capito nel foyer. Nel foyer. Ah, pensavo nel foie gras che mi piace di più. Ok, poi allora, Patrizia, dicevo... Roghi, ciao Patrizia. Ciao, bene, ciao a tutti. Te lo consento. Okay. Romina. Ciao. Marcello. Poi abbiamo due Luca. Ok. Luca Mencarelli. Buonasera. Ciao Luca. E uno sconosciutissimo Luca Posani. Sì, buonasera a tutti. Che è alla terza presenza, quindi. E sta insidiando qualche altro nostro affezionato ospite, ma evidentemente è molto attivo nella vita sociale e culturale di Foiano. Oh, allora facciamo solo un piccolo cappello, un preambolo. Loro quattro, i nostri ospiti, nel lontano, ma non correva troppo, l'anno 1900, ultimo spettacolo settembre 1999 durante una delle settimane foianese che fu organizzata. Allora facciamo un passo indietro invece. I Bifolk sono nati quando, come e perché? Chi inizia? A ragioneria. Romina. Nel 96-97 abbiamo iniziato con un po' di imitazioni dei professori, dialetto tianino. Allora all'epoca c'era la Laborre e la Vimarre che ci facevano i vistitini per Arpulisse tutti, e da lì si iniziò con qualche commedia, poeti, così. E poi ci piaceva questa cosa e si iniziò a fare lo spettacolo. Si iniziò in tre, insieme a Laura Poggini, la Romina, okay. Io, poi si inserì Luca Posani per una festa sempre in Foiano. Ti ricordi, Luca? Sì, in Piazza del Grano. Organizzata sempre dalla Proloca o qualcosa. La poi, faccenda è balorda. Si poi, chiama. Visto che erano ragazzini molto per bene, prima andava molto di più andare a catechismo dall'arciprete, passarono sotto le mie grinfie. Ah, ecco. Passati sotto le mie grinfie, vidi che in loro c'era veramente stoffa. Io a quel momento vidi in ognuno di loro vidi un attore e dissi: ma perché non iniziamo un po' a scrivere per bene questa cosa? Mettiamo nero su bianco, ma nero su bianco voleva dire prendere penna e foglio, perché non c'era né computer, certo, e né macchina da scrivere. Cioè, c'erano le Infatti, macchine da scrivere, però non i erano. I testi originali sono scritti a mano. O addirittura a macchina da scrivere, perché quando si inizia a scrivere con la macchina da scrivere? Quando la Chiara ha passato la prima comunione, che gli regalarono la macchina sì, da scrivere, finalmente si riuscì a scrivere, ecco, i primi testi perché a macchina. Oltre a voi c'era chi c'era anche, faceva parte del gruppo che stasera non ci può sì, essere, la signorina Marianna Illuminati. Ecco, perfetto, sì, perfetto. Che allora, ci sente da Firenze. Allora, salutiamo. Un saluto caro al di là dell'autostrada, in questo caso. Alla città di Bugiarino, se la città di Bugiarino. rimanere, ecco, per rimanente, ma esatto, la città dei bugiardini. I vostri, ne facciamo dopo qualche esempio nel proseguo della serata, erano comunque tutti spettacoli fatti in vernacolo, assolutamente. Sì, sì. Fatti in casa. Fatti in casa. Fatti in casa, sì. E più che altro nei nostri spettacoli cercavamo sempre di includere i personaggi tipici del paese. Cioè, logicamente è partito la Vincenza, la maestra Vincenza, che tutti nonché ricorderanno. Nonché assessore alla cultura. Vincenza, certo. Siriaco. Sì, lei sì, è stata la nostra prima fans, si può dire, dandoci a quel tempo praticamente ci fu dato anche un rimborso spese che per noi chissà sembrava che fosse chissà che. No? Questo rimborso spese per fare uno spettacolo in foiano, poi nonché l'arciprete che è bene o male ora non esiste più, però intorno alla chiesa, sì, prima veramente ruotava una miriade di ragazzi, tra il catechismo, tra la dottrina, cose varie, era un punto di ritrovo e anche di organizzativo. E poi, sì, bellissimo secondo me, Enzo, il fatto che proprio da Ragioneria, che è stata diciamo ospite in un paio di occasioni, sia partita questa cosa. E voglio dire, a Ragioneria si è sempre fatto cultura. Bravo. Non ho capito quello che hai detto. Allora farei così: visto che hai detto una cosa che non si è capita, manderei un brano così ci riflettiamo tutti. Ma chi insieme ha fatto Ragioneria avrà capito. Ma ha capito sicuramente. Tacca. Piove di rotto sul grande raccordo, sulle tue ali e gli uffici postali, dentro la casa di chi non si è accorto di non avere mai avuto un tetto sopra di te, che sei elementare, un sistema binario perfetto, odio un amore folle e normale sul grande raccordo animale. Arriva l'inverno, lo sento abbaiare in ogni goccia di questa pioggia che cade pesante sopra ogni cosa. E fortunata è la sposa, l'estate ritorna, vedrai che ritorna a ricordarci che solo la fame è l'avventura che ti fa paura in questo grande raccordo animale. Vieni qui a vedere il nostro sistema solare, è tutto lì, quel che c'è da sapere, tutte quante le preghiere. Il tempo passa o passa la voglia, ma soprattutto le circostanze, tutti quanti a camminare nel grande raccordo animale. Giuste proporzioni, non so la quantità, ma sono certo di volere. Si chiama volontà e se volere è sapere. Andrea Appino, questo è il grande raccordo animale. Famoso. Questo è famoso perché, caro il mio Marzi, lui è il frontman della band, della band pisana gli Zen Circus. E questo è il suo, ora te lo dico, è il brano che apre il suo nuovo album, che si chiama La Tempesta di Dischi. Ah no, La Tempesta di Dischi è l'etichetta. E il grande raccordo animale dà il titolo anche all'album. Pensa un po' te quante cose che te imparo. Chissà, chissà veramente. Che t'ansento, anzi, per essere. Ma, ecco, l'educanza, chi te l'ansenta? Perché... Oh, come sentirete. Marcello Mantesa è strutto o no? Io non ho voluto parlarne. Perché... No. Però ecco, dicevo, Enzo, questa sera io mi sento un po' molto coinvolto su questi argomenti, perché era un po' uno degli argomenti a cui tendevo da quando abbiamo iniziato, cioè il recupero della cultura foianese e chianina, venendo da Via del Bottaio, voglio esatto, dire, dove culla a valle della cultura piazzaltina e soprattutto a Vella, tra l'altro, ecco, a Illa. Oh, io volevo chiedere ai nostri ospiti com'è che diciamo si è incontrata questa esigenza di recuperare e di tradurre questa voglia di vernacolo chianino e di metterla anche in scena, trovando anche dei personaggi che chiaramente sono sicuramente di ispirazione reale, locale, direi. Ma da ragioneria sicuramente, anche perché noi con l'italiano non ci si azzeccava niente. La nostra professoressa Vannucci, al quale mandiamo un carosissimo saluto, persona piacevole che mi ha voluto tanto bene, a te, che sì, a tutti ci ha voluto bene. E insomma, quando si faceva i temi, l'italiano non era il nostro forte. E poi niente, si è iniziato anche con le parodie. Si guardava Beautiful, per esempio, noi gli c'era Brutiful, c'era Torne, Ridge, la Caroline. Che meraviglia! Oppure gli sketch a Minke Rentola, fino ad arrivare a Minke Rentola. Sì. Ecco, ma la Minka, che era uno, mi sembra di aver capito, uno dei personaggi che più era la nostra figlia. Io i personaggi ero, sì, erano Gigi, ecco, e che ero io il babbo, e la Luca Crezia, Mencarelli, e la Crezia la moglie, la mamma. Poi c'era la figliola che era la Minka Romina, no, lo dico, sì, per chi ci ascolta. Certo, e certo, questa la cosa, il peso della famiglia era che non si riusciva a piazzare sta figliola, la voleva nessuno. No, perciò che all'epoca era un problema. Era un problema, perché certo, andava, non era solo all'epoca, io ve lo dico. E sa, a tempi di battitura, a un certo punto non avessi due altre braccia maschili, hai capito? Era un problema, era un e problema. Poi questa qui era una città che mangiava parecchio, quindi era un problema. Allora era sempre perché la battitura, prima commedia, la città si sentiva male, non si sapeva che aveva, e si chiamò il veterinario per la visita. Ecco, il veterinario. Il veterinario stava bene, ma lei aveva fortuna di stomaco di prima mattina. E il veterinario chi lo interpretava? Luca Posani, e che faceva questo personaggio. Perché Luca e la Marianna non avevano molta dimestichezza con questo dialetto chianino. Signor, un po' più signore Rotti, sai, foglianesi. Paese, Da Fogliano bene. La nobiltà c'è sempre un po' di stile. Studiavano a Firenze. E quindi faceva magari un personaggio che aveva meno un po' la puzza sotto, esatto, meno slang, sì, meno inflessione. Il veterinario, il mago, il signore che veniva a ritirare i proventi a fine stagione dell'olio e del vino, che però scusa, poi io... le riportava mai a casa, perché il contadino, scarpe grosse, ma sì, cervello fino. Ma io volevo un attimo rimanere su questo discorso del veterinario, no? Il veterinario viene per le bestie, e però viene anche per, scusami, la figliola. Parentesi, non so se avete notato la S, proprio le bestie, la bestia. Che lui si subito diventa io me medesimo quando si parla di bestie, e si fa visita la figliola e scopre che la città è pregna. È pregna. ma quanto è pregna? Perché non è. È una bella gomma. Ma avevo messo a sguscia il Gran Turco, esatto, e a me mi piacevano tanto, e poi fatto gli arrostito con le pannocchine. La verità è che aveva mangiato tutto il Gran Turco. E lui che metà stava lui sarebbe il veterinario, sì, come le cuniglie. E sapete come andò a finire? Poi toccò Fagni e Cristere con la spagna da ramato, perché le dimensioni erano talmente grosse che non ci si faceva. Ascoltate, è bellissima, questo è solo l'inizio, ma i testi per il dialetto ve li facevate da soli, sì, o avevate, sì, qualche consulenza, no, esterna? No, funzione propria, cioè, non ascoltavate nemmeno i vecchi di, sì, allora, genitori, certo, nonni, ecco. Anche perché la parola cioè il mio nome Minka è venuta, ecco, dalla da mia che deriva? Dalla mia vicina di casa che si chiamava Mencarelli. Ah, quindi dal cognome, non Lemma, proprio dal nome, no, di battesimo. No, sì, infatti. Poi quando noi si faceva chiodo, se veniva da Sincero a prendere il panino, cioè, se mandava lei. No, una traccia base arriva da un libro vecchio di Del Poro Don Sante, sì, di Farneta, ah, okay, lì c'erano dei personaggi, qualcosa per partire, poi dopo piano piano si è allargata la cosa, ecco. Beh, ma vai, di no, io... se hai una domanda intelligente, no, allora sì. No, vai. No, è molto interessante questa cosa, perché ora me ne sono scordato e mi ci vuole almeno 3 minuti di musica per ricordarla. Allora facciamo così: nel prossimo intervento facciamo un piccolo estratto da uno dei vostri spettacoli. Poi, andiamo poi avanti. Se ce la faccio, vi faccio la domanda. Poi gli facciamo l'iniezione e andiamo avanti. Vai. E tutti insieme Bob Marley, questo era Exodus, storico disco del 1977 di Bob Marley e The Wailers. Questa era la canzone che dava il titolo all'interno dell'album, ce la privi. Ecco, io non sono un tipo vendicativo, ma se scrivi interno io leggo interno. Ai ai ai ai ai. E è considerato comunque, Enzo, ora al di là di quello che scrive il nostro Simone, uno dei migliori dischi, se non forse il migliore disco di Bob Marley. Bob Marley. E questo sento di convenire su questa cosa. Dalla Jamaica, bravo. Ma ritorniamo a noi. Ritorniamo alla nostra trasmissione, ritorniamo all'argomento che veramente onda che fuori onda mi sta coinvolgendo. Perché? Perché stiamo scoprendo degli amici, i nostri ospiti che hanno una vena artistica, soprattutto diciamo in versione chianina, che mi stimola fortemente. E come avevamo detto, siamo qui, adesso faranno un'improvvisazione sui vari frutto dei loro tanti spettacoli, dopo gli chiederemo anche quanti ne hanno fatti, per cui lasciamo i microfoni a Patrizia Rumina, Luca e vediamo che cosa succede. Comunque entriamo in una atmosfera della chiara. Cali il pathos. Allora, oh, si è fatta tanta fatica per venire qua su un vetta in piazza alta, chilometri chilometri a piedi. Una razione mi par da aver mangio il baccalà con le cipolle. Oh madonnina, la città gli puzza il fiato di cipolla anche stasera. Per fortuna che siamo alla radio, se sei alla Etruria dal puzzo e dal... Ma a me ci vedevano. Mi sarei in faccia, eppure... E dottor Rossi ci buttava fuori subito, con te, c'è da vergognasse. Ma te sei pulita l'orecchio manco stasera. C'ha un cipollino alto. Su, decia, sei come il tuo babbo. Oh, io che vuoi che c'ho quell'ugna incarnita, poi basta. Con quell'incarnagione una l'ugna, c'ho provo anche con le forbici per potare. E Gigi, e ma riesce. Ah, me l'ha scarnita ancora di più. Gigi, io mi ricordo la prima volta che t'ha vidi. Anch'io. E so passi tant'anni. Ma te lo ricordi, quando t'ha vidi? Quando t'ha vidi in tul campo d'erba medica con la felce finea a mano a buco ritto, mi sarizzi ogni cosa. Ora non te sarizza più niente. E pu, quando t'ha vidi dall'intrisa le neni e il segheto all'uccellini, t'avrebbe detto vieni a governare il mio. Entire che roba. E il problema è che ora c'è la riserva di caccia, non si chiappa più niente. E io me lo ricordo sempre. Eri bello, parevi una mela rossa, ora c'è armasto il torselo. Bravissimo. Signori, niente di scritto, tutto improvvisato, è amore che trasuda, appunto. E perché quando io ero alle fonti dei macelli, quando vidi il mio reste, una vampeta di sudore, mi cavai la gunnella e la piazzola e poi via dietro. Niente, niente, io fuggivo e lui fuggiva di più, me sa ne rinfacceo anche a lui. Bellissimo, bravissimi, spettacolo. Questo è solo l'inizio, ricordiamo. Ecco, a questo punto, dopo lo spettacolo, un bel inframezzo pubblicitario, come direbbe il nostro sponsor dei Bifoli. Ecco, esatto. Olio Bruschetta, l'olio del mulino del Petta, produce l'olio più buono della Chiane. L'olio Bruschetta è buono anche per unge la carretta. E perché è il profumo Belva? Acqua Belva. Il profumo, sì, per il vero maschio selvatico, Belva. E anche tu potrai finalmente dire che sito il micittino. Che anche qui è antesignano, perché il sito c'era anche allora. Non era www, ma era un'altra cosa. C'è anche l'astetista della città, menzionela. Ecco. Ci vuoi sempre a roncarmi peli. Istituto di bellezza Sciattoni. Vuoi diventare bella? Un ci spera. Sciattoni al più te ravversa un pochinino. Spelamenti totali e lampade sbronzanti. E ora che se va nell'estate, Bilbova, l'abbronzante fatto col chiaro dell'ova. Ragazzi, stasera un sarguiscio. Che meraviglia, io direi... faccio una domanda, va, prima di andare con un altro brano. Scende la tristezza. No, perché siccome avete tanto materiale, no? Ma quanti spettacoli avete fatto? Allora, commedie scritte saranno una quindicina. È un patrimonio. È un patrimonio. Poi nelle commedie veniva anche menzionato spesso e volentieri i mangiari tipici. Il nostro mangiare più era il burischio. Col burischio ci si faceva di tutto. La colazione era la meglio cosa. Se partiva proprio. Volta. Addirittura in una commedia questo burischio fu usato per illudere i padroni, Luca Posani e Mariana, che venivano da Firenze, vedevano. Cioè loro non si rendevano conto che sia l'abbronzatura che magari la pelle del contadino era in quella maniera perché il lavoro dei campi. Certo. Cioè, ma che fate? Perché siete così belli? E questi contadini furono talmente furbi da fargli credere che l'elisir loro era una fetta di burischio la mattina. Ecco, e quindi da lì Luca iniziasse a mangiare il burischio la mattina. Va bene, allora, dopo ne facciamo un altro pezzo, ma poi qui avete tantissimo materiale, vi facciamo altre domande. Marcello ancora sta pensando a quella intelligente. Intanto approfitto per salutare alcuni amici che ci ascoltano: Daniela, Rachele. Elisa, Rachele, un'altra Elisa, e poi ce n'ho altri che ora il mio benissimo computer. Mauro, bravo, aiutami te. Allora, Cristina, dai. Cristina, dalle Capezzine, da Monteggio del Loto, da Monteggio del Loto, sicuramente. E poi, vabbè, tanti altri: Elena, Alessandro, vabbè, insomma, ce ne sono tanti. Va bene, ok, io, non ti arrabbiare. Grazie a tutti per la comprensione e per la fiducia. Yeah. E dall'album Catholic del 2011, questo era Gavin Friday con Abel. Bellissimo. Cioè, me la sono preparata due giorni fa. Pensa, caro mio Marzi, che questo è un amico d'infanzia di Bono Vox. Incredibile. Il miglior amico, scusami Simone, per precisione. E a detta proprio del nostro Simone, che è l'esperto musicale, probabilmente negli ultimi, diciamo che le carriere sono state diverse fino a un certo punto, però a giudicare da quello che dice Simone, forse negli ultimi anni è più interessante questo Gavin Friday. In effetti anch'io l'ho ascoltato con un certo interesse, con molta attenzione, e stavo pensando un po' a tornare a noi, ecco, allora, perfetto. Ricordiamo alla Chiana, prima di parlare della Chiana, concedimelo, ricordiamo, sì, certo, gli appuntamenti che possono trovare i nostri amici sulla nostra pagina Facebook, sempre ricca di appuntamenti. Il lunedì con, non solo con, per il giovedì, assolutamente, ma c'è un lavoro attento e certosino per buona parte della settimana, a partire da lunedì con una serata da Leoni. E ho detto bene, Simone, vero? Eh? Sì. Hai visto? Alla 51esima puntata, dove il nostro Simone dà dei consigli cinematografici e ci sono a volte delle perle che anch'io mi riguardo e mi rigodo grazie a Simone. Ma poi, dopo il giovedì dove c'è la puntata e il venerdì dove pubblichiamo il nostro podcast, il sabato abbiamo l'appuntamento con Colpo Grosso. Gli appuntamenti del fine settimana, ho detto bene anche questa? Del weekend. Incredibile, ma torniamo a noi. E io non a caso ho fatto questa piccola battuta salace e simpatica, ma perché volevo introdurre un evento che c'è stato e che ha visto protagonista da prima Romina in un luogo che mi dice che piuttosto importante, che se non erro era Piazza Sant'Agostino. Che cosa ti è successo in Piazza Sant'Agostino? Ci chiamarono in città, noi tutti emozionati. Okay, ma che pigliasti, sì, il torpedone per andare la Pea là? No, la Pea. Ah, scusa. E quando arrivasti lì? Ci tremava le gambe. Io ma mica andasti con le scioce, No, quelle no. C'avevo i sandali che me l'avevano leghi tutti a vilucci su la gamba. Però ci conobbero subito che c'era 10 anni. O come mai? Comunque io mi ringuattai in un angolino e mi misi in sottoveste. Ma di quelli che me fossi sposa l'avevo ad Opri la prima notte. E invece vetti nel palco e con una voce tutta sessi facevo l'1-4-4, facevo Moana che ve piglia tutto con una mano. Il tripudio generale, quindi, questa cosa. Pare che abbiano fatto un'iscrizione in un angolo di... tirata in Piazza Sant'Agostino, qui si è esibita Moana. Rimanendo in tema di sentimento, bravo, Luca mi sembra che abbia accennato a un qualcosa di importante. Ho ritrovato una poesia che è una dichiarazione d'amore di Gigi alla Beppa. Dopo l'amore ai tempi del colera, l'amore ai tempi della Chiana. Della Chiana, attenzione perché è bellissima, prego. In un canton del focolare, Menco la Beppa gli decantò il suo amore. Menca, t'amo come una miccia l'uva. Mi piace sta con te come a te con me. L'ho capito subito che io e te se stava bene insieme. Mi guardi con quegli occhioni come un rospo in bocca in serpe. Con quella bocca che leguma sempre. Oh, che musino c'hai. Hai due bocce come quella vacca. La stellina che ragione la stalla, te la ricordi? Madonna che latteria! Hai due fianchi in culo come quella troia che m'ho venduto il mese scorso. Ma come mi piaci menca! Hai due cosce e due polpacci che mi paiono due mortadelle di Bologna. Bella, la mangerebbe tutta la mi menca. Oh, menca, su dimmelo che anch'io te piaccio tanto così. Te vorrebbe di tante cose, ma c'ho un tremolio dentro che mi pare d'aver la febbre. Mi batte il cuore come un tamburo. Te vorrebbe baciare, ma canna di tua. È solo un anno che stiamo insieme e non sarà un po' presto? Ma questo l'avete scritto voi? Cioè, nel senso... Sì, questo lo pubblicavamo anche su una rivista qua che c'era, che forse c'è ancora. Si può... sì, Valdichiana Affari. Ah, non so, forse se c'è più. Sono tutti Piazza Grande, anche, insomma, quelli stili. Un vostro angolo dove... cioè, era un lavoro, insomma, cioè, era un lavoro, nel senso, era intensa come cosa. E se faceva altro. Mancavano i mezzi per muoversi, perché ci hanno chiamato a svariate feste. Ecco, infatti volevo chiedere questo, ma come fa dei bacelli di spogliare? Beh, ma lì si iniziava maggio, lì fu il top. Maggiolata. E alla qui maggiolata? Alla maggiolata mi ricordo bene una. Allora, prima di tutto, per trasportare, faccio veramente qui un passo indietro nel tempo e nei ricordi, ricordando anche le persone care a noi. Mi ricordo che per trasportare questa roba serviva un pulmino, perché noi partivamo veramente con letti d'epoca, letti d'ottone, seggiole impagliate, materiale impegnativo da smuovere. Certo. Muovere. E mi ricordo che non c'era, si era disperati, perché loro erano più piccoli, io ero più grande, sono più grande di loro, però non c'erano i mezzi per portare questa roba. Allora a Luca Posani venne idea di fare la marachella, come si suol dire. Dice il mio babbo, c'ha il pulmino giù nel garage, è caricato perché domani parte, va al mare, va l'Elba. Dice bisognerebbe prendere il pulmino di nascosto. Vabbè Luca, te vai in casa, prendi le chiavi e io lo guido, vediamo un po' quello che si può. Se va giù, io non vi dico quel che c'era in quel pulmino, c'era i viveri che sarebbero serviti per tutti quei sbarchi giù in Sicilia, i viveri per l'Elba. Si smontò tutto il pulmino e di notte, senza farsi accorgere dalla mamma di Luca, dalla Giovanna, certo, e il babbo che ricordo con affetto, si smontò il pulmino, si caricò con tutta la nostra roba e si montò poi il palcoscenico alla Sagra dei Baccelli. E poi lì in scena venivano, cioè, oltre che a divertire, perché era ironica la cosa, si divertivano anche perché noi ci si divertiva. Certo, la base era quella, il trucco era solo quello. Era quello. Prima ci si divertiva noi, poi dopo si capiva che ci aveva un pubblico. Esatto. Io mi ricordo due cose buffissime. Una a Lucignano, alla Maggiolata, già era peso essere lì, perché Foiano con Lucignano era già peso essere lì. E praticamente Luca aveva preso la famosa stagna da ramato per fare cristiano. Gigi aveva preso la stagna da ramato per fare cristiano alla città. Però Luca non sapeva che il suo nonno veramente a casa aveva dato il ramato. L'aveva sciacquata la stagna. Praticamente lui, nel fare la scena, nel pompare questa stagna da ramato, partì uno schizzo. In prima fila c'era un omino vestito di bianco. Per poco ce l'incio. Era arrivato tutto in montura per la festa. Improvvisazione totale, perché sì, o bloccavi panico, tutto panico. Perché, o se no si drammatizzò con esatto. Ma la Crezia, la Patrizia, lei guidava di tutto. Da Creti si portò, mi ricordo, il trattore del mio zio. A noi in scena siamo andati anche con un trattore, con un decespugliatore, il Leone 70 al monte, alla Sagra della Porchetta, con la 500 di una volta di Luca, che arrivavano i signori di Firenze in 500. Quindi la cosa era veramente fatta, aveva un livello anche, insomma, di impegnativo davvero, eh? Era sì, molto molto impegnativo. Una volta che Luca fu preso da la passerella, perché il giorno dopo ci sarebbe stata una selezione di Miss Italia, e volle provare questa passerella, però non si era accorto che gli operai ci avevano lasciato chiodi, fece la passerella a scalzo. Meraviglioso. No, cioè, tanti ricordi. Ci credo. Purtroppo anche questa sera ce ne sarebbero volute tre di ore, non una. Sta per finire, andiamo con l'ultimo brano, poi ci salutiamo, facciamo un ultimo ricordo. Potremmo fare anche dei buoni propositi. Bravo. Music. Soon turned out, had a heart of glass. E questa era Blondie con Heart of Glass, cuore di vetro, caro il mio Marzi, che ti sei impigliato perché stai usando delle cuffie. Non sono le mie. E mi sei avuto sono... ti dato ogni cosa addosso. Mi sei avvinciato. Scusate. Comunque è stato ripreso tutto. Ora è difficile da descrivere. C'è Marcello che sta cercando di mettersi le cuffie nella postazione numero 3. Lui è all'1, quindi rimaneva impiccato. Poi ho detto non sono queste, ha preso quelle della 2. Insomma, le cuffie ce l'aveva al collo. E per fortuna che non cercavo gli occhiali. Bene. Ma quote popolari anche questa settimana. Allora, dunque, calmo. Qui c'è un patrimonio. Qui, bravo, ecco, finiamo diciamo, così. La cosa bellissima, Enzo, lo sai, che la nella nostra ricerca di persone, fatti, cose, dire, fare, baciare, lettera, a ogni puntata troviamo delle cose nuove, ma sono delle cose e dei personaggi, delle aspettative, delle cicliche. Perché 20 anni fa, quello che facevano i nostri ospiti, un po' meno, 15 anni fa, è quello che stiamo cercando di fare anche noi, cioè riscoprire, valorizzare le nostre zone e un po' i personaggi e il modo di essere nostro, da dove veniamo, ma soprattutto dove andiamo? Questo è il dubbio. Ma soprattutto dubbio come mai ancora non ti ci hanno mandato anche non se lo voglia... so, forse perché no, però dipende da te. Scusate questi scadimenti, ma la cosa bellissima è che voi non potete vedere ovviamente chi ci ascolta, però è la quantità di materiale che hanno conservato e che quindi è pronta all'uso. Di più, è una cosa che ho svelato a loro ieri sera. Il povero Uscione, che si conoscerà tutti Uscione, in quanto aveva visto in me, non lo so, aveva visto questo futuro di tramandare le cose. Io credo di essere l'unica persona a cui ha regalato il fascicolo del famoso Giocondo Zappaterra. Ah, però, io questo... ho il fascicolo originale di Giocondo Zappaterra. È un regalo che Uscione mi ha fatto. No, questa è... Qui a maggior ragione. È un patrimonio storico. A maggior ragione nel ringraziarvi per essere stati con noi. Purtroppo il tempo è quello che è, perché qui ci sarebbe da fare veramente 10 ore. No, sai che cosa ci sarebbe da fare, Enzo? Ecco, non tanto una trasmissione radiofonica, ma da mettere in scena tutta questa cosa. Il nostro invito è quello, rimettete in scena qualcosa. Subito il teatro. Ecco, sul teatro aspetterei, diciamo facciamolo in Piazza Alta davanti al loggiato, davanti al comune. Ah, anche la collegiata. Oh, la collegiata, bravi. Allora noi un bel palcoscenico naturale. Bravissimo. Nel ringraziare Patrizia, Romina, Luca e Luca per essere stati qui stasera, gli strappiamo la promessa che prima o poi riporterete in scena qualcosa, vero? Sì, penso proprio di sì a questo punto. Un remake con la Marianna anche con la Marianna, certo, assolutamente. Certo. Io penso che sarebbe bello ritrovarsi tutti. Molto. E noi ci speriamo. Allora, dandoci un appuntamento a non troppo avanti nel tempo. No, non lo so, io dico così. Intanto un primo appuntamento lo possiamo dare per giovedì prossimo. Noi ci risentiamo tutti giovedì prossimo con l'ennesima puntata, la 24esima, se non della sbaglio, della seconda stagione. A questo punto, come aveva citato prima Cundero. Romina, Torne ha appena conosciuto, no, Rigi ha appena conosciuto Bruchi. Più o meno, no? Allora ringraziamo ancora, un saluto a Patrizia, ciao Romina, grazie, ciao a voi. Il Lucas. Ringraziamo anche Paolo che stasera ha curato le riprese. Grazie Paolo. Marzi, è stato bello. Sì, come sempre. Diciamo. Ma noi ci vediamo anche dopo, non facciamo finta di... Ringraziamo anche Simone. Ciao a tutti. Bravo. E andiamo con la sigla, giovedì prossimo. Ciao ciao. Buon ascolto dalle F Frequenze. Avete ascoltato? Piazza Alta, un programma di e con Enzino e Marzi. Alla parte tecnica, Simone. One. Alle riprese video, Paolo. Paolo. A giovedì prossimo. Ossimo.